peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Beroni da Salpinaz. Oggi una sorta di confronto, come un pretesto per l'incontro con due pianisti tra i più attivi negli ultimi anni, che sicuramente hanno anche delle notevolissime qualità. Si tratta di Craig Taborn e di Aki Takase, molto diverse da un lato sia come stili che anche come provenienza culturale, però con alcuni elementi in comune, per esempio una capacità di adattamento e di elaborazione di personalità che si riesce a inserire anche in contesti molto diversi tra di loro. Ascoltiamo per primo il Taborn in un incontro in trio, il trio guidato da Mario Pavone. Mario Pavone, o Pavon per dirla all'inglese, ma insomma comunque chiaramente la provenienza, il nome la indica con una certa chiarezza. Pavon è un contrabbassista di alto livello, purtroppo meno conosciuto di quanto meriterebbe. Ha ormai una lunga militanza in vari gruppi dell'avanguardia americana, a partire dagli anni 50, dagli anni 70, nelle sue esperienze con Anthony Braxton, poi soprattutto una lunga collaborazione anche con Bill Dixon. È venuto anche in tournée in quegli anni in Europa con questi due musicisti. Poi negli anni, diciamo che è venuto alla ribalta soprattutto per la collaborazione lunga, per molti anni fino alla sua fine, con il sassofonista Thomas Chapin. Thomas Chapin è uno dei grandi del sax contralto, è stato sicuramente un musicista di altissimo livello che ha avuto il problema anche di essere registrato da etichette che potessero distribuirlo adeguatamente, per cui ha sempre lavorato con l'etichetta della Knitting Factory ed è rimasto quindi in una sorta di contesto del downtown newyorkese. Thomas Chapin ha formato un trio con Mario Pavone, appunto, e quindi una collaborazione con Mario Pavone che è durata fino alla morte prematura, peraltro, di Thomas Chapin. Mario Pavone poi ha continuato con le sue formazioni, soprattutto in trio, privilegiando la situazione in trio col pianoforte, ma poi anche con altre, allargandosi con la collaborazione della maggior parte dei musicisti più interessanti, più importanti dell'avanguardia newyorkese, come per esempio da Tim Berna a Tony Malaby, poi a Steve Bernstein. Insomma, sono moltissimi i musicisti che hanno lavorato con lui, compreso anche John Zorn. Recentemente è uscito un ultimo lavoro in trio, un trio nuovo, con appunto Craig Taborn e Gerald Cleaver, due assi, anzi tre assi direi. La registrazione è stata effettuata in un concerto dal vivo e quindi anche la vitalità e le caratteristiche che può di dinamica che può avere anche una situazione live, insomma. Ascoltiamo un paio di questi brani. Taborn anche in questo caso si conferma un musicista che riesce a dare un carattere dominante anche alla sua alla, al percorso creativo che svolge e dimostra di avere appunto una tavolozza di colori molto ampia nella possibilità espressiva del suo pianoforte. E naturalmente bisogna pur dire che Gerald Cleaver è un maestro, si conferma anche lui un maestro del suo strumento, e quindi un disco con notevoli qualità nella sua produzione, un disco uscito pochi mesi fa. Ascoltiamo due delle composizioni firmate appunto da Mario Pavone. era il trio di Mario Pavone con Craig Taborn e Gerald Cleaver. E il disco è uscito recentemente per l'etichetta Playscape, l'etichetta con la quale incide Mario Pavone, intitolata Arc Trio. È abbastanza curioso come titolo, visto che Arc Trio è il nome del gruppo di trio di Mario Pavone, ed è una registrazione fatta alla Cordelia Street Coffee nel febbraio del 13. Si sente sicuramente l'influenza di Cecil Taylor nel modo di suonare di Craig Taborn, si lascia ispirare, diciamo, dalle percussività di Cecil Taylor. E peraltro Mario Pavone ha collaborato all'inizio della sua carriera proprio con questo pianista. E il lavoro di tessitura e poliritmica di Gerald Cleaver è veramente magistrale ed è straordinario, dà una dinamica fortissima all'intera performance. Passando alla Aki Takase, anche lei è una musicista che spesso si lascia affascinare anche dal mondo dell'espressione free e dall'influenza che naturalmente Cecil Taylor ha avuto su questo stile, o questo non stile, se si vuol dire, ma è anche molto attenta ad altre forme espressive. Per esempio, è molto attiva anche con diverse collaborazioni e con diverse produzioni discografiche. Recentemente ne è uscita una sicuramente di interesse. Tanto si nota la provenienza culturale anche diversa. È sicuramente una musicista legata al jazz, ma è giapponese e vive in Europa, vive a Berlino. E questo le dà anche una possibilità di scelte e di collaborazioni ben diverse da quelle che normalmente avvengono oltreoceano. Il disco che ascolteremo adesso è un disco registrato e uscito diversi anni fa, nel 2007. Una collaborazione che è avvenuta, registrata anche in altre occasioni, con una clarinettista, sassofonista, polistrumentista, diciamo, Silke Eberhard, una musicista berlinese, quindi un lavoro che esce nell'ambito delle musiche che emergono da questa straordinaria città. È un disco doppio dedicato alle musiche di Ornette Coleman. È una rilettura dei classici, dei temi composti da Ornette Coleman e riletti dall'intelligenza e anche dall'eleganza di queste due musiciste, che trovano tra l'altro un'ottima intesa tra di loro. E ascoltiamo alcune di queste famose composizioni di Ornette Coleman, rilette appunto da queste due musicisti, Aki Takase e Silke Eberhard. Thank you.

Questo era il duo tra Akita Kase e Silke Eberhard, dedicato alle musiche di Ornette Coleman. È un lavoro ben riuscito, che mette in luce anche le qualità di introspezione, le capacità di analisi di queste due musiciste, e i riferimenti stilistici fanno parte della tradizione del jazz che viene anche dal passato. Sicuramente il pianoforte della Takase in questo caso fa ricordare anche certi esercizi di sintesi di Ram Blake, di questa derivazione monchiana che riesce a intervenire con dissonanze o con approfondimenti armonici sui brani appunto in questo caso di Ornette Coleman. E anche il dialogo con la Eberhard è decisamente di alto livello. La Eberhard ha una preparazione classica robusta che appunto le consente anche di esercitarsi in una ricerca armonica che si integra perfettamente anche con il linguaggio della Takase. Quindi un lavoro decisamente ben riuscito, inciso nel 2007, uscito per l'etichetta Intat, che è un'etichetta particolarmente attenta alla musica dell'avanguardia europea e che ha prodotto negli anni molti lavori interessanti che testimoniano dei passaggi o dei momenti di creatività stilistica europea di alto livello. Un altro esempio appunto è questo ultimo lavoro della Takase in una formazione di quartetto. È un disco uscito nelle ultime settimane, quindi quest'anno nel 14, titolato Flying Soul, e il gruppo è Akita Takase La Planète. È una formazione che raccoglie, oltre appunto al pianoforte della Takase, raccoglie appunto musicisti che fanno parte della tradizione più profonda di quella che è stata questa sorta di rinascimento che si è vissuto in Francia tra la fine degli anni 80 e tutta perlomeno la prima metà degli anni 90, ma anche oltre. Sono musicisti come Sclavis alle varie anze, o Pifarelli al violino e Vincent Courtois al violoncello. Quindi una formazione cameristica. Musicisti di primo ordine, ben integrati anche tra di loro, con risultati appunto che anche con la guida della Takase riescono ad esprimere momenti di alto livello. Ascolteremo un paio di queste composizioni che vale la pena appunto, che sottolineano appunto le qualità di questo quartetto. Thank you. Questo era il quartetto senza batteria, quindi un quartetto cameristico di Aki Takase con Luis Clavissa alle anse, clarinetti, Dominique Peffarelli al violino e Vincent Courtois al violoncello. Tutti questi musicisti riescono ad esprimere anche la loro capacità lirica espressiva e la loro grande preparazione classica, accademica. Le atmosfere recuperano quelle dell'impressionismo francese, quindi una provenienza, giustamente, che l'Aki Takase trova appunto in un contesto di musicisti francesi. E era anche l'ultimo ascolto per oggi, questo lo ricordo, il disco è intitolato Aki Takase, La Planète, il gruppo, Flying Soul, uscito recentemente per l'etichetta Intact. Era l'ultimo ascolto per oggi e vi ricordo che la trasmissione, anche le indicazioni discografiche, le potete trovare nel nostro sito radiocittafugico.it nella sezione playlist. Salve a tutti, alla prossima. Sal peanuts. Sal peanuts. Sal peanuts. Sal peanuts. Jazz on megahertz. Sal peanuts. Sal peanuts. Sal peanuts. Sal peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Thank you.